mi impegno a migliorare in ogni pezzo che scrivo, fino ad arrivare dove avevo deciso. Se per caso voi non l'avevate capito, io punto in alto, io punto in alto, sempre più. Se, sempre più, sempre più in alto, yeah, sempre più. E punto in alto mixtape volume 2, sempre più. Se, yeah. Scrivo su fogli bianchi o su schermi digitali. L'obiettivo è sempre curarmi come coi medicinali. Se seguo il ritmo che mi hanno imposto impazzisco. Il mio discorso di cazzate io non lo infarcisco. Mi hanno chiesto se va tutto bene, non va bene affatto. C'ho l'onore sempre intatto, voi parlate, sì ma intanto. Qua c'è gente che scrive e se guardi vedi il flow. Non voglio fare la fine dell'Oceania in 1984. Avevo promesso a me stesso che non sarei mai stato diverso, che anche nelle piccole cose avessi sempre trovato l'immenso, che sarei andato sempre più in alto, oltre le nuvole e il sole, che avrei sempre cercato altro, superando ogni incomprensione. Beh, eccomi ancora qua, un po' di tempo è passato, ma sono sempre incazzato, nel frattempo ho preso e lasciato. Ho scritto altre lettere a me stesso per ricordarmi ora come sono, prendendo esempio da chi lavora sodo e da chi ogni giorno segue un vero scopo. Mi impegno a migliorare in ogni pezzo che scrivo, fino ad arrivare dove avevo deciso. Se per caso voi non l'avevate capito, io punto in alto, io punto in alto sempre più. Se sempre più, sempre più in alto, yeah, sempre più. E punto in alto mixtape volume 2, sempre più. Se, yeah. Considero sta roba proprio come uno sport. È per questo che mi alleno tutti i giorni non stop. È per questo che non punto alla TV come uno spot. Punto solo in alto con le rime più al top. Tu la felicità la cerchi nel grano, crop circles. Ogni mio discorso non si ferma al punto. Ho scritto un modo che è capace solo a generalizzare, che ha portato a giudicare senza avere conosciuto. C'è chi vale meno di uno sputo, ma si chiede grande cresciuto e chiede che tutto gli è dovuto. Io cerco di pretendere quello che mi spetta e cerco di guardare oltre ciò che si presenta. Ovviamente però una cosa è certa, non sempre trovi diamanti nella merda. Parlo della mia vita e scavo un po' a fondo, cerco una via di uscita e mando a fare in culo il mondo. Senti come me la spallo quando sto sulla batteria. Non posso far altro da parte mia, ma almeno per un attimo scappo via. Visto che essere felici qua sembra un'utopia, ma sto sempre in piedi, la mia vita non la butto via. Scrivo velocemente perché proprio non ho tempo. Questa vita corre veloce e io sento un mancamento. Stare dietro a lei è una cosa tosta. Sto giù con sto suono selvaggio. Wild Oscar.